24, i gialli della storia. Il 28 giugno del 1914 l'omicidio a Sarajevo dell'arciduca Francesco Ferdinando, principe ereditario austriaco, è il pretesto per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La grande guerra che segna con la sua tragedia l'inizio del XX secolo. Un secolo segnato dalla modernità, ma anche dagli stermini di massa e dall'orrore. E nella puntata di oggi a Mix 24 percorreremo quel conflitto segnato da eccessi di nazionalismo e violenza. Il nuovo secolo si era aperto all'insegna dell'ottimismo, della fiducia nel progresso scientifico, economico e sociale. L'Europa non era mai stata così ricca e fiorente. L'esposizione di Parigi del 1900 era sembrata il battesimo di un'età dell'oro. Fu la cosiddetta Belle Époque che, nonostante scontri sociali e guerre coloniali, aveva risparmiato conflitti sanguinosi sul continente europeo e in larga parte del mondo per un discreto numero di anni. Nel 1914 le grandi potenze europee erano divise in due blocchi di alleanze contrapposte. Germania, Austria e Ungheria da un lato, Francia, Russia e Gran Bretagna dall'altro. Ma erano al tempo stesso legate da una fitta rete di rapporti reciproci, economici, commerciali e anche dinastici. Tutti gli stati, ad eccezione della Francia repubblicana, erano retti da regimi monarchici e tutte le case regnanti europee erano imparentate fra loro. Un ruolo importante negli avvenimenti che portarono allo scoppio della Grande Guerra fu svolto dagli imperatori di Austria, Ungheria e Germania, che il Trattato di Versailles avrebbe indicato addirittura come i veri responsabili del conflitto. Il più anziano dei due, Francesco Giuseppe d'Asburgo, non sopravvisse alla guerra. Morì infatti nel 1916, 86enne, dopo un regno durato quasi 60 anni. Quanto a Guglielmo II di Hohenzollern, nato nel 1859 e salito al trono tedesco nel 1888, aveva rappresentato sin dai suoi primi anni di regno l'anima aggressiva e imperialista di una Germania in continua ascesa economica e sempre più consapevole della sua potenza militare. L'appoggio incondizionato, il cosiddetto assegno in bianco, fornito dalla Germania alla sua alleata Austria-Ungheria nella crisi con la Serbia, seguita all'attentato di Sarajevo, fu senza dubbio uno dei fattori scatenanti del conflitto. Governi e gruppi dirigenti cavalcano l'ondata nazionalista, ma spesso ne sono condizionati e trascinati. Il caso forse più tipico è quello della Germania, dove il nazionalismo ha radici forti e antiche che risalgono alla cultura romantica e alle guerre napoleoniche e suscita un consenso diffuso, esteso ai ceti popolari. Ascoltiamo il commento dello storico Emilio Gentile. Ogni nazione ha un suo nazionalismo. Il nazionalismo della Francia è un nazionalismo democratico che proclama l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e vuole diffondere in Europa, distruggendo il militarismo prussiano e l'Austria-Ungheria, questo principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini organizzati in nazione. L'Italia ha un suo nazionalismo molto diverso, il nazionalismo di una piccola potenza che aspira a diventare una grande potenza, che aspira nello stesso tempo a ricostituire entro i suoi confini tutte le popolazioni italiane, ma che aspira anche ad avere un ruolo di grande potenza nella nuova Europa. E poi c'è il nazionalismo tedesco. Il nazionalismo tedesco è un nazionalismo moderno per certi aspetti, è il nazionalismo di una grande potenza industriale che si considera sottovalutata e subordinata a quella che è l'egemonia inglese, che aspira ad avere un suo ruolo egemonico in Europa e nel mondo. E poi ci sono i micronazionalismi delle nazioni soggette all'impero austro-ungarico, ciascuna delle quali aspira, alcune ad avere un ruolo maggiore all'interno di una nuova Europa, altre semplicemente a riconquistare o a conquistare la loro indipendenza come stati-nazione. Studiando i documenti, gli storici hanno scoperto un piano dettagliato che prevedeva dopo la guerra una Mitteleuropa a dominante tedesca. Un'area che andava dal Regno al Caucaso, dal Mare del Nord al Danubio. Ne parla lo storico Wolfgang Mosmes. Ovviamente ci sono sempre stati piani per la costruzione di una grande Germania. Se si fossero uniti tutti i territori che venivano considerati, tra virgolette, tedeschi o di influenza tedesca, avremmo avuto un Reich immenso, ma era una posizione sicuramente marginale. Prima del 14 nessun raggruppamento politico serio avrebbe pensato di affermarsi facendo proprio un tema del genere. Una volta iniziata la guerra, invece, la situazione era cambiata radicalmente. Anche Bethmann Hollweg, il cancelliere tedesco, affermò che l'antico sistema degli equilibri politici aveva fatto il suo tempo, che quel sistema aveva solo permesso alla Gran Bretagna di recitare sempre il ruolo di potenza dominante, ma che ormai era necessario realizzare un'alleanza egemonica dell'Europa continentale sotto la guida degli imperi centrali. Questa posizione trovava un fondamento ideologico nella famosa idea della Mitteleuropa, alla quale in linea di principio avrebbero dovuto aderire tutti gli stati. Ma come è cominciata la Prima Guerra Mondiale? Ancora il racconto di Erich Winkler. La Prima Guerra Mondiale ha origine da un atto di violenza individuale, precisamente da un attentato, non molto diverso da quelli di matrice anarchica, che avevano già mietuto numerose vittime fra governanti e teste coronate. Ma questa volta il gesto di un singolo scatenò subito una gravissima crisi internazionale. La vittima dell'attentato, consumatosi a Sarajevo, capitale della Bosnia, allora soggetta all'Austria-Ungheria, era l'erede al trono degli Asburgo, l'arciduca Francesco Ferdinando, fautore da tempo di una più stretta integrazione della componente slava all'interno dell'impero. Il governo austriaco, spalleggiato dall'alleato tedesco, cercò la resa dei conti col piccolo stato balcanico, cui inviò un durissimo ultimatum. Ma la Serbia era protetta dalla Russia, a sua volta legata da un trattato di alleanza militare con la Francia. Così si innescò la reazione a catena, che in poche settimane avrebbe trascinato l'Europa nel più disastroso dei conflitti. L'Austria si sentiva sfidata e doveva rispondere. Il problema era capire se la risposta avrebbe portato ad una guerra che non fosse circoscrivibile. I tedeschi incoraggiarono l'Austria a mantenere una linea dura e quando, grazie anche all'intervento della Russia, giunse la risposta sorprendentemente conciliante della Serbia, persino il Kaiser fu indotto a dire: «I serbi si sono mostrati moderati, non hanno voluto inasprire ulteriormente i toni». Ma i militari erano del parere che a quel punto occorresse alzare la posta, imporre condizioni più dure. Non si poteva consigliare agli austriaci di accontentarsi della risposta dei serbi. Per i vertici tedeschi, l'Austria era l'unico alleato su cui poter fare affidamento. Un alleato che non si voleva assolutamente perdere, basato su una specie di fedeltà nibelungica. Fu la Germania, dunque, che nel momento cruciale incoraggiò decisamente l'Austria a non accontentarsi della risposta serba, innescando così l'escalation che avrebbe portato alla guerra. Die Eskalation, die in den Krieg führt. La Serbia e la Russia erano legate da un'antica amicizia, quindi era prevedibile una mobilitazione russa, ma la Russia è molto grande e per una mobilitazione generale ha bisogno di tempo. Il piano tedesco, il piano Schlieffen, prevedeva un veloce attacco alla Francia prima che la Russia fosse in grado di intervenire. Ascoltiamo il commento dello storico Alexander Rechiakin. Nicola II e le persone che gli erano vicine esitavano. La decisione di entrare in guerra non fu presa subito, prese corpo solo col procedere degli avvenimenti e furono molti i fattori in gioco. Non furono solo l'antica ostilità degli slavi nei confronti dei tedeschi o la solidarietà nei confronti degli altri slavi, dei serbi in particolare. Furono importanti anche le considerazioni di tipo strategico. In cosa consistevano? La Russia considerava i Balcani e lo Stretto del Mar Nero come parti vitali della sua sfera di interessi. La dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia, guerra che evidentemente la Serbia non avrebbe mai potuto vincere, insomma, la vittoria dell'Austria che si delineava all'orizzonte avrebbe definitivamente infranto l'equilibrio strategico che si era formato nei Balcani, sottraendoli per un periodo molto lungo alla sfera di influenza russa. Cosa che il governo russo non poteva accettare. Questo spiega la dichiarazione di mobilitazione dell'esercito e in definitiva l'entrata in guerra della Russia. Fine 1943. Fin dai primi giorni di guerra in Europa vengono mobilitati oltre 10 milioni di uomini, con parecchie migliaia di volontari in tutti gli schieramenti, in particolare in Gran Bretagna, dove il servizio militare non è obbligatorio. È una guerra di massa che non ha precedenti, ne parlano gli storici Martin Gilbert e Wolfgang Mohner. In Gran Bretagna esisteva un forte sentimento antitedesco. Nel 1908, qualche anno prima dello scoppio della guerra, in uno dei suoi grandi discorsi, Churchill aveva cercato di placare questo sentimento antitedesco definendolo un'assurdità. Ma la rivalità navale aveva esasperato gli animi e il Kaiser era continuamente dileggiato. Così, quando scoppiò la guerra, i tedeschi erano sentiti come i nostri nemici naturali e tutti erano convinti che sarebbero stati sbaragliati in 448. In molte aree urbane la classe operaia era portatrice di una forte tradizione socialista e il partito laburista, che non aveva una grande rappresentanza in Parlamento ma godeva di un grosso seguito popolare, era contro la guerra. Qui, dunque, come in Francia, alla vigilia del conflitto, ci furono massicce dimostrazioni contro la guerra. Ma bastarono poche ore perché il patriottismo avesse il sopravvento sul socialismo. La guerra sul fronte occidentale si apre con un evento traumatico. La violazione della neutralità del Belgio da parte delle truppe tedesche, il 4 agosto 1914. Lo scopo è quello di sorprendere le difese francesi nel loro punto più debole e puntare direttamente su Parigi. La motivazione è la stessa che aveva fatto precipitare lo scontro con la Russia: la necessità della Germania di far presto, di chiudere in poche settimane il fronte occidentale per poi rivolgere tutte le proprie forze contro il rullo compressore russo. La scelta si rivelerà disastrosa sotto diversi punti di vista. In primo luogo sarà l'invasione del Belgio a rendere definitiva la decisione della Gran Bretagna di intervenire al fianco di Francia e Russia. Inoltre, l'attacco a una nazione neutrale, il Belgio martire, susciterà una fortissima impressione nell'opinione pubblica europea e darà corpo a un'immagine negativa della Germania, la barbarie tedesca, che sarà largamente sfruttata dalla propaganda dei paesi dell'intesa per tutto il corso del conflitto. Sicuramente la violazione della neutralità del Belgio fu determinante ai fini dell'ingresso in guerra della Gran Bretagna, ma non rappresentava il vero motivo. Il vero motivo scaturiva dalla considerazione che il configurarsi di una posizione di assoluta egemonia degli imperi centrali in Europa era inconciliabile con gli interessi della Gran Bretagna nel mondo. A giugno del 1914, ossia poco prima che la crisi scoppi, si cominciò a capire che su questa neutralità non si poteva più contare. E Bethmann Hollweg disse disperato: «Se scoppia la guerra, marcerà contro di noi fino all'ultimo inglese». Le forze armate, invece, reagirono esattamente in modo contrario. I militari infatti dicevano: «Lo voglio al cielo, se partecipano anche gli inglesi, sarà veramente l'ultima occasione che avremo per vincere una guerra in Europa». Il cosiddetto piano Schlieffen mirava a risolvere il problema di una guerra condotta su due fronti, guerra che il Reich tedesco reputava rischiosa e che intendeva risolvere con un'azione lampo finalizzata alla messa in fuorigioco politica e militare della Francia, prima ancora che la Russia avesse completato il previsto riarmo. Nel 1914, però, i presupposti su cui questo piano si basava erano in parte venuti meno, a causa del riarmo russo che, con l'aiuto dei francesi, procedeva secondo i piani, nonché della costruzione della linea ferroviaria russo-occidentale, che riduceva enormemente l'intervallo di tempo che intercorreva fra la mobilitazione e l'impiego effettivo in battaglia, laddove in precedenza l'esercito russo impiegava più di un mese per sferrare l'attacco. La particolarità della Prima Guerra Mondiale è stato il modo in cui si sono affrontati gli eserciti. Con la diffusione delle armi automatiche e l'utilizzo di enormi potenze di fuoco, gli uomini non si affrontavano più frontalmente in un campo di battaglia, un conflitto enormemente più distruttivo. Ma a fianco dell'uso dell'artiglieria si vive anche un meccanismo violento che si sviluppa e si esercita nella guerra di trincea, dove si torna al combattimento corpo a corpo. Ancora gli storici Stéphane Rousseau e Giorgio Rochat. Si calcola che il 70-80% delle ferite sia stato provocato dall'artiglieria, mentre gran parte delle altre lesioni sia stato causato dalle mitragliatrici, determinando un numero di perdite che nessun conflitto precedente aveva raggiunto. Un esercito come quello francese perde 900 uomini al giorno in battaglia, 900 soldati uccisi ogni giorno, mentre i feriti sono 3 o 4 volte tanti. 900 soldati in media uccisi ogni giorno tra il 1914 e il 18. Mai nessun esercito aveva subito tali perdite, nemmeno nei grandi conflitti come le guerre di secessione americane, nemmeno durante la guerra franco-prussiana del 1870, nella quale pure le perdite erano state ingenti. Gli eserciti si muovono ancora a piedi o coi cavalli, esattamente come gli eserciti di Napoleone o degli antichi romani. Mentre invece la potenza di fuoco è diventata spaventosa, pari a quella della Seconda Guerra Mondiale, e per certi aspetti il fuoco d'artiglieria è ancora più forte di quello che si ha nelle guerre recenti. Quindi c'è un enorme vantaggio per il difensore. Un cannone è un'arma che può essere offensiva o difensiva, ma per essere offensiva deve muoversi, e nella Prima Guerra Mondiale il motore sul campo di battaglia non c'è ancora. Sul campo di battaglia ci sono solo gli uomini, perché i cavalli su un campo di battaglia così frantumato, rotto, sporco, pieno di buche, i cavalli sul campo di battaglia non ci sono, non si possono muovere. Quindi quando comincia la battaglia l'artiglieria è schierata e il difensore ha tutti i vantaggi, perché non deve muoversi. L'attaccante può pestare le linee che intende avanzare, ma una volta che i suoi soldati sono arrivati sulle linee nemiche, l'artiglieria attaccante è cieca, serve a poco perché non vede quello che succede, non può muoversi in avanti per rincalzare le truppe, per aiutare le truppe. Per cui in tutta la guerra, quando l'attacco è organizzato bene, riesce sempre a raggiungere la prima linea nemica, le prime linee a sfondare e a raggiungere, ma poi si ferma perché le truppe si trovano dinanzi a un fuoco difensivo che è sempre forte più di prima o come prima, mentre il fuoco dell'attaccante, il fuoco d'artiglieria dell'attaccante diminuisce, perde efficacia perché l'artiglieria non si può spostare e non vede quello che succede. Il campo di battaglia è coperto da una nuvola di polvere, di terra, diciamo polvere di terra, terriccio sollevato dalle esplosioni, coperto, non si vede dove sono arrivati i soldati. La maggior parte dei combattenti non ha mai visto il nemico da vicino, se non molto raramente. E quando ha ucciso a distanza, senza sapere chi stava uccidendo. Ed è stata ferita o ha visto i propri compagni feriti sempre a distanza. In linea di massima è vero, ma solo in questo senso, perché i combattenti hanno molto insistito, forse anche un po' troppo insistito nelle loro testimonianze, su questo aspetto anonimo della morte in combattimento, della morte data e di quella ricevuta. In realtà, quando si osservano da vicino certi testi o si osservano certi oggetti conservati nei musei di guerra britannici, francesi, italiani, austriaci, russi, quando si considerano fonti diverse dalle testimonianze dei combattenti, ci si accorge che la guerra a volte ha provocato anche dei ritorni a forme di violenza interpersonale, a forme di combattimento corpo a corpo che in qualche modo erano state abbandonate con la modernizzazione del combattimento legata alle nuove armi dell'inizio del XX secolo. E ci si accorge in particolare che la guerra di trincea, soprattutto nel momento dell'assalto, mette i difensori e gli assalitori a contatto molto ravvicinato e che quando questo accade il corpo a corpo ritrova interamente la sua dimensione. Questo accade con l'uso delle armi da combattimento ravvicinato, quindi ovviamente con le granate, le pistole, ma anche con i coltelli, le pale per scavare, i manganelli, tanto che armi di questo tipo entrano talvolta a far parte dei regolamenti militari. Ad esempio, fin dal 1915, i regolamenti dell'esercito tedesco prevedevano che il taglio delle pale per scavare trincee fosse affilato, in modo che i soldati tedeschi potessero servirsene come armi per il corpo a corpo in caso di attacchi a sorpresa, ossia nel caso di irruzione in trincea di un drappello nemico che era necessario respingere. In quel momento le armi ordinarie, come il fucile, sono in qualche modo di poca utilità e quindi, anche durante la Prima Guerra Mondiale, si verificano delle sacche di violenza che sono sacche di violenza interpersonale. E ovviamente questo tipo di combattimenti spesso sono stati volutamente dimenticati dai veterani, perché sono la sede dei traumi più profondi e a volte la sede dei sensi di colpa originati dai combattimenti ai quali si è preso parte. Quel tipo di violenza spesso viene rimossa dalla memoria dei veterani e dunque spesso rimossa anche dagli storici. Souvent évacué aussi par les historiens. La violenza che si manifesta nella Prima Guerra Mondiale è straordinaria. Le mutilazioni, i traumi facciali che si conteranno saranno il segno indelebile di questo conflitto. Violenze che saranno la caratteristica di questo conflitto, che rimarranno presenti nel ricordo e nei racconti di tutti i protagonisti. Quello che è certo è che la Prima Guerra Mondiale potrà sempre essere descritta come un insieme terribile di nazionalismo e violenza e che diventerà un punto di riferimento per i conflitti futuri. Dove siamo? Che è questo? Dove ci ha sbalestrati il sogno? Penombra, pioggia e fango. Rossi bagliori d'incendi nel cielo bigio che rimbomba senza posa di tuoni e boati, empiendo l'aria umida, lacerata da sibilanti ronzii, dall'arrivo di furiosi latrati da cane infernale, che terminano il loro percorso fra schegge, spruzzi, schianti e fiammate, da gemiti e gridi, da squilli d'una tromba che sta per scoppiare, da rulli d'un tamburo che spinge alla fretta. Ecco un bosco dal quale si riversano frotte grigie che corrono, cadono, saltano. Ecco una catena di colli che si allunga davanti al lontano incendio, la cui bragia si condensa ogni tanto in vampe lingueggianti. Intorno a noi si stendono i campi ondulati, sconvolti, sterrati. Una strada maestra li attraversa, fangosa, coperta di rami spezzati, simile al bosco. Una viottola di campagna, solcata, senza fondo, porta ad arco fino ai colli. Tronchi si ergono nella pioggia, umidi, scamozzati. Qui c'è un cartello indicatore. Inutile interrogarlo. L'aria quasi buia lo nasconderebbe anche se un colpo non l'avesse sbrindellato a frastagli. Oriente o Occidente? E la pianura? La guerra.